Oh mio signore, dimmi perché per questa gente giustizia non c'è. La terra è avara, troppe le tasse, sono schiacciati dalla povertà. Contro il Borbone e la nobiltà che affamano il popolo senza pietà. Insieme uniti dobbiamo lottare per conquistare la libertà.